Maria di Leno canta ora una moderna canzone friulana dal titolo Roses, musicata da Bruno Degano su parole di Guido Michelutti. In essa si rispecchia un po' l'anima semplice e gentile della nostra terra. Doi, la Buinesere, è un'antica villotta popolare che il complesso Tonin e il suo quartetto ha scelto come sua sigla musicale. Ascoltatela. Thank you. vecchi e nuovi motivi o amici in ascolto che vi ricordano un luogo caro, un periodo lontano o un volto amato del vostro Friuli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 74esima trasmissione dedicata agli emigrati a cura di Ermete Pelizzari. Arrangiamento ed esecuzione musicale di Tonin Kuberli e il suo quartetto.